land. Mostro il mio mondo, raccontando un po' di me. Cosa sarà giorni di quei momenti che scriverò. Suona questa musica per me mentre dico parole ed emozioni. Penso a cosa ne sarà di noi dentro la paura di mostrarsi ancora. Immobile, mostro il mio mondo, raccontando un po' di me. Cosa sarà?